Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Terremoto dopo la scossa della notte, torna l'attenzione, la paura nelle tendopoli e negli ospedali, inagibile una casa su due. E si prova a ripartire, nasce una cittadella della pubblica amministrazione, la conferenza episcopale promette altri 2 milioni di euro. Ucciso per un commento su una ragazza, un ragazzo di 21 anni accoltellato a Napoli durante una lite. E a Parigi tornano le guerre tra bande, un 17enne muore in uno scontro tra due gruppi delle banlieue. Trattative per liberare gli italiani, ostaggio dei pirati, sequestrata al largo della Somalia un'altra imbarcazione, la nona dall'inizio di aprile. In Thailandia torna la calma apparente, dispersi i manifestanti, ma le autorità promettono pene severe. Era l'ultimo dei compagni di merende del mostro di Firenze, è morto il postino di San Casciano. E buongiorno dalla redazione, buongiorno da GR Extra Large, da Anda Migliorati. E buongiorno anche da Simone Spezzi. Apriamo dunque col terremoto. Una scossa di 4.9 sulla scala Richter, la più forte del dopoterremoto, ha svegliato la notte scorsa gli abitanti dell'Aquila. Ancora tanta paura dunque per l'emergenza, che davvero è tutt'altro che superata. Ma oggi c'è anche una buona notizia, una notizia di speranza, ed è che c'è anche chi torna al lavoro. E allora andiamo all'Aquila da Daniele Morini. Daniele, ti sei fatto anche un giro oggi tra le tendopoli e tra gli ospedali. Qual è la sensazione che hai trovato dopo la scossa della scorsa notte? Sì, molto nervosismo tra la gente che torna appunto ad avere paura dopo qualche giorno, proprio durante le festività pasquali, di calma relativa chiaramente, ma comunque di calma. Torna il nervosismo, dicevamo, soprattutto negli ospedali e nei campi. Gli ospedali, sia quelli costruiti sotto le tende, messi in piedi sotto le tende nelle varie tendopoli, ma anche in quello di Teramo, dove abbiamo avuto dei contatti stamattina per capire un po' la sorte di chi è ricoverato con ferite più o meno gravi appunto per le scosse. Anche lì è tornata all'apprensione, soprattutto dei familiari che stanno assistendo i malati. Poi dicevamo nei campi è tornato il nervosismo, in quei campi dove si sta cercando di riorganizzare una vita tranquilla, per non dire ecco normale, perché la normalità è ancora un concetto molto lontano. Scossa di 4,9 di magnitudo alle 23:14, è una delle più forti, la quarta per magnitudo da quella di 5,8 che si è registrata nella notte del 6 aprile. Abbiamo detto anche delle case inagibili, il dato dei tecnici tra ieri e stamattina era del 30% delle case controllate, un dato che purtroppo, come avete detto anche voi, sta aumentando. Aumentano anche le file della popolazione per rientrare nelle case grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. Sono dei veri e propri esodi, condominio per condominio, via per via, i soccorritori accompagnano con caschetto le persone che vogliono recuperare quel minimo sempre di normalità nelle loro case distrutte. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Daniele, è tutto, ma ti ritroveremo tra poco, perché nella seconda parte di Extra Large dedicheremo un'ampia pagina al terremoto. Intanto c'è un ultimo run. Sì, arriva da Roma Cinzia Banelli, la prima pentita delle nuove Brigate Rosse, ricorderete, potrà lasciare il carcere di Sollecciano di Firenze. L'ex compagna condannata per l'omicidio del professor Massimo D'Antona a 12 anni di reclusione, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti domiciliari, ne ha scontati 5 in carcere. La notizia è appena arrivata, ve la racconteremo anche naturalmente nelle prossime edizioni di GR24. Adesso invece andiamo a Napoli, dove un ragazzo di 21 anni è stato ucciso in strada per una lite. Giovani abituati alla violenza verbale e fisica, ragazzi che girano con un coltello in tasca pronto all'uso come se fosse uno specchietto da borsa, e la scorsa notte la squadra mobile di Napoli ha iniziato ad indagare sulla morte di un 21enne ferito nel corso dell'ennesima lite per futili motivi. Forse è stato un apprezzamento non gradito la causa scatenante del litigio. Nella tarda serata di ieri, non lontano dal porto di Napoli, tre ragazzi con le fidanzate stavano percorrendo a piedi via Cristoforo Colombo. Da una macchina alcuni ragazzi hanno fatto dei commenti, poi uno scambio di parole, Giovanni Tagliaferri è sceso dalla macchina, qualcuno ha tirato fuori un coltello che lo ha colpito ad una gamba. Le tre coppiette sono scappate via, mentre gli amici del 21enne lo hanno accompagnato in ospedale, dove poi è deceduto nella notte. Laura Viggiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. In Francia un morto e altri due feriti ci sono stati in scontri tra due gruppi di due diverse banlieue, anche qui giovanissimi. Insomma, tornano ad esplodere ancora le periferie parigine. Un morto e due feriti gravi. E questo il bilancio di una rissa tra bande rivali avvenuta la scorsa notte a Parigi. Il tragico episodio ha avuto come protagonisti due gruppi di giovani della banlieue, uno della zona di Saint-Saint-Denis e l'altro dell'Essonne. E tutto è successo nei paraggi della stazione ferroviaria Gare de Lyon. Stando alla ricostruzione, gli abitanti del quartiere hanno chiamato la polizia verso le 4 di questa mattina segnalando una rissa in corso. Ma quando gli agenti sono intervenuti sul posto, era già troppo tardi. A terra sono stati ritrovati tre ragazzi, tutti feriti d'arma da taglio, e uno di loro, un 17enne di Saint-Saint-Denis, non ce l'ha fatta. E intanto, mentre la polizia ha fermato quattro giovani e li sta interrogando, l'ipotesi del regolamento di conti sembra già esclusa. Alla base della violenza ci sarebbero così solo un incontro fortuito e futili motivi. Igor Fiatti, GR24 Il Sole 24 Ore, Parigi. Parliamo dei pirati somali adesso, perché un'altra nave è stata sequestrata oggi nel Golfo di Aden davanti alle coste della Somalia. È la nave greca Irene. Sono così 9 le imbarcazioni sequestrate solo dall'inizio di aprile. Quest'ultimo attacco è avvenuto mentre ancora nelle mani dei pirati il rimorchiatore Buccaneer, sequestrato l'altro ieri con a bordo, lo sapete, 16 persone, tra cui ci sono 10 italiani. Secondo le ultime informazioni è all'ancora in un'area del nord della Somalia e gli ostaggi italiani sarebbero stati portati a terra. Nella zona ci sono navi americane e francesi, ci sono inviati europei, sta arrivando anche la marina italiana, insomma la comunità internazionale ormai da mesi è mobilitata. Ma che margine c'è di trattativa per gli ostaggi italiani? Cosa cercano questi pirati moderni? In diretta con noi c'è il professor Nicolò Carmineo, esperto della rivista Limes, docente di diritto di navigazione presso l'Università di Bari e autore per Longanesi di un'inchiesta sulla pirateria moderna dal titolo Nei mari dei pirati, che arriverà in libreria a breve. Insomma, un esperto davvero dei pirati di oggi. Professor Carmineo, buongiorno. Buongiorno. Allora, primo punto da chiarire: cosa cercano i moderni pirati della Somalia? Obiettivi politici, come abbiamo detto più volte in Niger, ad esempio, o qui si tratta solo ed esclusivamente di soldi, di denaro? No, loro cercano esclusivamente il riscatto, come dicono, siccome parlano in francese, l'argent. E lo hanno dimostrato molte volte, in quanto hanno attaccato anche una nave saudita. Quindi non badano la bandiera, non badano che il naviglio sia americano, saudita o cinese, ma in realtà per loro quello che conta è solo il riscatto. E bisogna ovviamente sottolineare che la situazione somala è molto difficile. Il paese è fuori controllo ormai da molti anni e viene governato da varie milizie armate, da signori della guerra. Alcuni di questi signori della guerra si sono organizzati per la pirateria e ovviamente non c'è controllo, l'unico governo in Somalia è il governo federale di transizione, il GFT, che in effetti è un governo d'ombra e non controlla il territorio. Da quel che ci ha detto, professore, ci sembra di capire dunque, essendo signori della guerra, che agiscano bande diverse. In sostanza non c'è un disegno in questi attacchi che svolgono, insomma è solo un'attività di guadagno come altre, mettiamola così. Allora guardate, la pirateria in Somalia è cominciata alla fine degli anni 90, è stato un peschereccio italiano, il Bari Kenya nel 2001, a dargli i primi soldi per acquistare i primi armamenti e i primi scafi. Loro hanno capito che quella poteva essere una forma di guadagno molto redditizia e all'inizio non erano organizzati, poi pian piano con i primi guadagni hanno acquisito delle strutture, delle vere e proprie strutture militari. Quando io nella mia inchiesta ho sentito alcuni di questi capi dei pirati, loro mi spiegavano che c'è una gerarchia ben precisa, che i pirati prima di andare all'abordaggio hanno un addestramento di circa 6 mesi, che devono compiere l'abordaggio in 15 minuti. Ognuno a bordo ha dei ruoli molto precisi. Ci sono varie gang di pirati. Tra le più famose ci sono i Somali Marine, che tutti quanti hanno... Insomma, nulla davvero è lasciato al caso. Dicevamo però che appunto adesso ci sono 10 italiani nelle mani di queste bande. In queste ore si sta trattando, ma secondo lei che speranze ci sono? Ma io mi auguro che, voglio dire, le trattative vadano avanti molto velocemente e che si arrivi al più presto ad una risoluzione. Quello che io ho paventato in una mia analisi è che mi pare strano che non li abbiano portati nella loro roccaforte a Eil, ma li abbiano portati in un villaggio a nord di Bosaso, che è Lascorey. Lascorey è una zona di confine tra le due regioni, quella del Puntland e del Somaliland, che sono in conflitto tra di loro. E lì, nel giugno scorso, è avvenuto che i due rapiti, in quel caso erano due tedeschi che erano stati rapiti sul loro yacht, non erano stati fatti rimanere sulla costa, ma li avevano portati sulle montagne all'interno. Il timore è che per la pressione delle marine, che in questo momento è molto forte nel Golfo di Aden, anche i nostri possono lasciare il Bucanir ed essere portati sulle montagne all'interno. Professore, abbiamo solo 20 secondi ed è una domanda secca. Il fatto che gli americani e i francesi con alterni successi, diciamo così, abbiano proceduto con dei blitz sostanzialmente per liberare gli ostaggi nelle mani dei pirati, pensa che possa provocare dei problemi per gli ostaggi italiani? Cioè, pensa che questo possa avere un impatto? Beh, i pirati giocano sul ricatto, ovviamente sono situazioni che vanno valutate caso per caso, sono situazioni molto difficili, quindi spetterà alla Marina italiana e alla nostra coalizione dell'Unione Europea Atalanta a decidere. Insomma, tutto in mano alle trattative. Grazie intanto al professor Nicolò Carmineo, esperto di pirati, nei mari dei pirati longanesi, arriverà a breve in libreria. C'è anche una curiosità, tra l'altro, sì, da registrare, perché gli americani, sì, davvero non perdono occasione. Sì, che mentre i pirati continuano a imperversare, è già pronto un programma televisivo che seguirà e descriverà l'intervento della Marina Militare Americana nel Golfo di Aden. Lo ha annunciato Spike TV, il canale televisivo americano che si è aggiudicato l'esclusiva sulle operazioni dei militari. Spike TV intende seguire con le telecamere passo dopo passo l'intervento, raccontando in retroscena delle operazioni. E in America andiamo con l'ultima svolta, ancora una volta, del presidente americano Barack Obama. Dopo 50 anni di gelo, le prime aperture a Cuba, revocate le restrizioni per i viaggi e le rimesse in patria per gli esuli cubani in America. Ad allentare lo storico embargo economico contro Cuba ci aveva già provato Bill Clinton negli anni 90. Le condanne di 75 dissidenti cubani avevano poi indotto George Bush a restringere ulteriormente viaggi e rimesse nel 2004. Del resto il giro di quattrini è enorme. I cubani che vivono negli Stati Uniti, circa 1.300.000, inviano poi $1.400.000 di aiuti ai loro parenti più stretti. Le rimesse in dollari contribuiscono a mantenere un livello di sopravvivenza per il 48% delle famiglie cubane. Per molti osservatori internazionali, lo sblocco dei viaggi per gli esuli cubani negli Stati Uniti rappresenta un gesto di apertura nei confronti di Raul Castro alla vigilia del vertice continentale che si svolgerà a Trinidad e Tobago il prossimo weekend. Ma Obama non può fare di più. Il resto: diritti civili, libere elezioni, via libera ai partiti dell'opposizione, rilascio dei dissidenti, stampa, informazione radiotelevisiva libera, dovrà essere opera di Raul Castro e del Partito Comunista Cubano, dei suoi funzionari corrotti e di molte scellerate scelte economiche che hanno costretto la popolazione alla fame. E il commento era di Daniele Biacchessi. Ancora clima di festa per la politica italiana, Camera e Senato chiuse per Pasqua, ma intanto si lavora al piano sanità, lo rivela oggi il Sole 24 Ore. 27.000 posti letto eliminati in 5 anni, la metà già nel 2011. Comincia da qui il piano antisprechi che il governo discuterà con le regioni. Entro il 2015 gli ospedali troppo piccoli dovranno essere eliminati, il tasso di ospedalizzazione è abbattuto dagli attuali 160 ricoveri ogni 1.000 abitanti a 130. I posti letto dovranno scendere da 3,5 a 3, sempre ogni 1.000 abitanti. Valori rispettati adesso solo da due regioni, Toscana e Veneto. Per il resto le criticità sono diffuse. Lazio e Abruzzo hanno già il servizio sanitario completo, commissariato. Campania, Calabria, Sicilia e Molise sono in attesa del verdetto del Consiglio dei Ministri. Il Molise, ad esempio, dovrebbe ridurre i suoi posti letto da 1860 a 1280. Su questo sentiamo il presidente della regione, Michele Iorio. Non è impossibile il raggiungimento di questo obiettivo, anzi riteniamo che sia alla nostra portata. Il problema è però la dimensione degli ospedali, perché ci ritroveremmo a dover rivedere completamente l'offerta della struttura ospedaliera, ma sostituirla con altre iniziative che fanno parte di un piano più a lungo termine, ma non possono essere sicuramente affrontate immediatamente. Un'altra regione a rischio commissariamento è la Sicilia, ma il suo assessore alla sanità Massimo Russo difende il lavoro fatto finora. Abbiamo recuperato tutto ciò che era da recuperare nel 2008, abbiamo fatto la verifica portando dati peraltro convalidati dall'advisor ministeriale, siamo assolutamente tranquilli sul buon esito di questa valutazione perché abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere, abbiamo onorato le nostre obbligazioni, adesso la regione Sicilia fa proprio quello che viene definito lo slogan di questo cambiamento: più territorio, meno ospedale. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed aggiungere tra le notizie di oggi, tornando alla pagina della cronaca, la morte a Firenze di Mario Vanni, 82 anni, l'ex postino di San Casciano Val di Pesa, l'ultimo compagno di merende di Pietro Pacciani, ancora in vita. Vanni era stato condannato, ricorderete, all'ergastolo per concorso in 4 duplici delitti del mostro di Firenze. Le 13:19 minuti, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato del terremoto in Abruzzo in apertura, ma abbiamo affrontato anche il tema dei pirati, che questa mattina i pirati somali hanno sequestrato un'altra nave, una nave greca, e hanno ancora nelle loro mani 10 italiani. Abbiamo parlato di Cuba con gli Stati Uniti, che hanno fatto le prime aperture, sono state revocate le restrizioni per i viaggi e le rimesse in patria degli esuli cubani. Abbiamo parlato anche del nuovo piano per la sanità che prevederebbe, stando alle indiscrezioni pubblicate questa mattina dal Sole 24 Ore, un taglio di 27.000 posti letto. E poi abbiamo parlato di cronaca con la lite per un commento fatto su una ragazza che ha portato all'uccisione di un 21enne a Napoli. Ora torniamo in Abruzzo. Partendo dall'inchiesta della Procura dell'Aquila dopo il terremoto, che ora dovrà valutare quale responsabilità vi siano nella costruzione degli edifici che sono crollati, se siano state rispettate le norme antisismiche, ma anche se siano state rispettate le norme che stanno ancora prima di quelle antisismiche, vale a dire l'uso di materiali adeguati, la realizzazione di case, palazzi ed edifici pubblici in luoghi nei quali era giusto, era possibile, era sicuro costruire. Nello speciale di questa mattina è stato ospite il procuratore capo dell'Aquila, Alfredo Rossini. Ebbene, sentiamo. Intervistato da Alessandro Milan. Noi praticamente cercheremo di esaminare i siti, naturalmente, dove sono stati palazzi più grandi, più forniti di strumenti apparentemente moderni come il cemento, le norme antisismiche, compagnia bella, che nel frattempo invece, guarda caso, sono crollati provocando le morti che dicevo. E quindi all'inizio esamineremo con i nostri periti, abbiamo ormai uno staff di periti che sta lavorando per noi. Abbiamo raccolto il materiale, l'abbiamo conservato per esaminare che tipo di materiale è stato usato, naturalmente. E questi periti cominceremo, per dire, tanto dall'ospedale, che è un sito dove sono morti parecchie persone, e poi, insomma, voglio dire, quasi un simbolo. E poi andremo avanti via per tutti quegli altri, come dicevo, che erano importanti stabili pubblici dove c'è stato il cemento, in teoria, dove c'erano norme antisismiche, malgrado questo sono crollati, compreso il Palazzo di Giustizia. Indagherete anche sul vostro palazzo. Senta, procuratore, oggi non so se nel trambusto ha avuto modo di leggere i giornali, su Repubblica Roberto Marzetti, che è il direttore generale dell'ASL dell'Aquila, dice: ho scoperto anch'io incredibilmente un anno fa il San Salvatore, cioè l'ospedale, non aveva il certificato di agibilità. E cosa fece? Gli chiede l'intervistatore. Andrai subito a verificare. Era vero, l'ospedale era aperto da 6 anni senza certificato. Ma un ospedale abusivo, com'è possibile? Non so davvero spiegarmelo. Avrei dovuto chiuderlo, ma si sarebbe scatenato il caos della popolazione. Che Italia è, procuratore, questa? È l'Italia che ci siamo guadagnati, quella disattenzione. Comunque, per quanto riguarda quell'ospedale, abbiamo acquisito anche una grande operazione che ha fatto il Parlamento a suo tempo, che sarebbe stata una commissione d'inchiesta su come è stato costruito in Compagnia Bella, e ci sarà molto utile anche per vedere le responsabilità eventualmente penali, perché tutto l'esame che noi faremo non sarà, diciamo così, sul singolo caso e poi andiamo via. Faremo un esame della filiera, da quando è stato dato l'appalto, è stato costruito, le persone che sono state impegnate come nel progetto, i progettisti, chi ha fatto i collaudi, no? Perché le responsabilità, come dice il Presidente della Repubblica, sono diffuse. Questa è la madre di tutte le inchieste, perché c'è tanti settori, tante filiere di indagini che noi faremo puntualmente nel tempo e arriveremo giustamente ai risultati senza esagerare, senza delle cose che poi dopo ci rimproveremo perché saremo stati imprecisi. Quello che faremo sarà qualche cosa di cui non ci dovremo vergognare. E così il procuratore capo dell'Aquila, Alfredo Rossini, che ha lanciato già anche un altro appello, un altro avvertimento che guarda al futuro, ossia la ricostruzione, un'altra inchiesta che è già in qualche modo virtualmente aperta. Il fiume dei soldi che arriverà all'Aquila per la ricostruzione è appetibile per gli interessi mafiosi che non sono estranei all'Abruzzo. La procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sui crolli provocati dal terremoto, vigilerà anche su questo aspetto. Parole anche queste del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, Alfredo Rossini, che proprio questa mattina ha parlato con il procuratore nazionale antimafia Grasso, che per primo aveva lanciato l'allarme. E allora facciamo il punto. Così come gli sciacalli entrano nelle case, anche altro tipo di sciacallaggio può intervenire per approfittarsi di quello che si mette a disposizione per ricostruire. La metafora del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso parla da sola. Il pericolo è che gli sciacalli della ricostruzione possano fare dell'Abruzzo ciò che è stato fatto dell'Irpinia. Lì, a quasi 3 decenni di distanza, lo Stato continua a pagare lavori infiniti. Una storia da 60.000 miliardi di lire piena di sprechi e tangenti, su cui è toccato alla magistratura fare una difficile chiarezza. Per Giuseppe Di Lello, abruzzese di nascita ed ex magistrato del pool antimafia di Falcone e Borsellino, il rischio esiste. Bisogna tenere sempre presente la contiguità geografica dell'Abruzzo, per esempio con la Campania, la costa già abbastanza infiltrata da queste organizzazioni, la Sacra Corona Unita ed altro. E io credo che l'Abruzzo non sia un territorio di mafie, non c'è dubbio, però è sicuramente un territorio di riciclaggio. Fondamentale è organizzare il sistema di controllo, ancora Di Lello. Sicuramente bisognerà che ogni comune abbiano degli osservatori, cioè vengano monitorizzate non solo le imprese che vincono gli appalti, ma vengono anche monitorizzati gli appalti stessi, che tipo di appalti sono, e poi i tipi, il subappalto, qui diciamo il veleno è nella coda. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E sono di un attimo fa le parole del presidente della regione Gianni Chiodi, il quale dice che l'allarme relativo all'infiltrazione della criminalità organizzata nella ricostruzione in Abruzzo non è una preoccupazione concreta, è una paura, un'ansia, ha spiegato, che deriva da quello che alcune volte è accaduto nel nostro paese. Però i tempi sono cambiati, dice, questo è l'Abruzzo e soprattutto non c'è nemmeno un principio di indizio per dire queste cose. Capisco, ha concluso, che questa cosa fa leggere i giornali. Ma Chiodi ha parlato anche della ricostruzione, dicendo che dopo le due fasi d'emergenza, la terza sarà quella di ricostruire il prima possibile il centro storico della città. E quindi dunque parte la terza fase. La prima fase, lo ha ricordato anche anche Chiodi, il presidente della regione, ma ormai tutti lo sappiamo, è stato l'intervento di emergenza, con tante facce di protagonisti, le vittime ma non solo, perché nelle zone terremotate non si scava più sotto le macerie, nei primi giorni però molte vite, ricordiamolo ancora una volta, sono state salvate grazie al tempestivo intervento dei molti soccorritori. E tra questi ci sono anche gli specialisti speleologi del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, che si sono calati nelle cavità degli edifici crollati come fossero grotte per individuare e raggiungere i dispersi. E allora sentiamo il racconto. L'esperienza di oltre 50 anni di attività nelle scuole e nei vari gruppi di intervento al servizio della vita umana in calamità naturali come il terremoto abruzzese sono i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico intervenuti all'Aquila e dintorni fin dalle prime ore dopo il sisma. Esperti di soccorso in frana o strettoia hanno utilizzato quelle tecniche per la ricerca e il salvataggio di persone sotto le macerie di edifici crollati. Mauro Guiducci è uno degli speleologi del Soccorso Alpino. Questo tipo di tecnica permette di arrivare agli incidentati senza i rischi traumatici che possono essere causati dall'utilizzo di pale meccaniche o mezzi simili. I tecnici disostruttori, come vengono definiti, utilizzano microcariche di esplosivo, cuscini pneumatici e martinetti idraulici per sezionare, spostare o sollevare i grandi blocchi di macerie. Così, percorrendo i canali sotterranei, riescono a raggiungere i feriti o a recuperare i corpi senza vita. Grazie a loro, ad esempio, la giovane Marta è stata estratta dalle macerie dopo quasi un giorno intero dalla scossa devastante. Marta! Marta, sei pure? Marta! Come sei? Abbiamo recuperato molte persone, specialmente nelle prime ore, fortunatamente vive. L'ultimo recupero è stato quello di Marta, che dopo circa 24 ore è stata individuata e tratta in salvo. Daniele Morini, GR24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E anche questo uno dei volti del terremoto in Abruzzo, i soccorritori che per ore e ore hanno scavato. 13 e 32 minuti, 30 secondi in questo istante, torna GR24 Extra Large. Terremoto, dopo la scossa della notte torna l'attenzione nelle tendopoli e negli ospedali, è inagibile una casa su due, sono in corso le verifiche di agibilità per molte delle famiglie sfollate. Il fiume di soldi che arriverà per la ricostruzione è appetibile per gli interessi mafiosi, dice il procuratore dell'Aquila, ma il presidente della regione nega, non è una preoccupazione concreta. Agli arresti domiciliari, Cinzia Banelli, la pentita delle nuove BR che partecipò all'omicidio di Massimo D'Antona. Ucciso per un commento di troppo su una ragazza, un 21enne è stato accoltellato a Napoli durante una lite. A Parigi tornano le guerre tra bande, un 17enne è morto in uno scontro tra gruppi delle banlieue. Trattative in corso per liberare gli italiani ostaggio dei pirati, sequestrata al largo della Somalia intanto un'altra imbarcazione, la nona dall'inizio di aprile. Thailandia torna una calma apparente, diversi manifestanti, ma le autorità promettono pene severe. E come vi abbiamo promesso, torniamo dunque all'Aquila in diretta con Daniele Morini. Buongiorno a te. Allora, quali sono le notizie della giornata? Allora, i temi forti un po' di questa giornata, oltre al ritorno delle scosse, quella di 4,9 di magnitudo, la quarta più forte dall'inizio di questo sisma abruzzese, i temi, dicevamo, sono sostanzialmente due. Il primo lo abbiamo seguito direttamente questa mattina, poco dopo le 8 tutti i dipendenti del comune dell'Aquila sono stati riconvocati dal sindaco presso uno dei pochissimi, se non l'unico, edificio del comune dell'Aquila rimasto agibile, rimasto in piedi. Cioè la sede del Corpo di Polizia Municipale. Tutti i dipendenti comunali, dicevamo, per ricominciare a riorganizzare i servizi per il cittadino, quindi tutti i vari assessorati, i vari settori, i vari dipartimenti dell'amministrazione comunale stanno ripartendo, molti dipendenti avevano avuto lutti diretti o in famiglia, insomma abbastanza parenti prossimi, e quindi si sono ritrovati tutti. Naturalmente c'erano alcuni settori, come potrete immaginare, quello di Polizia Municipale, quello dell'urbanismo, quello dell'ambiente, che avevano continuato a lavorare anche in questa settimana, ma questa di stamattina è stata la prima vera chiamata ufficiale dei dipendenti di nuovo intorno ai loro dirigenti. A questo proposito sentiamo delle voci raccolte proprio questa mattina da noi, a cominciare dal vice sindaco Roberto Riga, seguito dall'assessore all'ambiente Alfredo Moroni e dal comandante della Polizia Municipale Carlo Maggiti e di alcuni dipendenti. Noi adesso abbiamo un'esigenza, quella immediata di riuscire a localizzare un edificio, un punto dove poter fissare il Comune dell'Aquila, cioè dove poter rimettere la sede del Comune dell'Aquila per poter far ripartire tutta l'attività. Siamo riusciti a contattare tutti i dipendenti che ancora non erano stati coinvolti in questa fase di prima emergenza, e oggi ci stiamo adoperando perché i vari settori si strutturino per dare risposte non soltanto di prima emergenza ma anche, diciamo, di carattere dire, più organizzativo e più strategico. Oggi è il primo giorno di vero grande ritorno, dopo le paure, dopo tutto ciò che è accaduto, e cerchiamo di utilizzare al meglio proprio tutto il personale, perché veramente c'è grandissimo bisogno di aiuto e di intervento. Io personalmente lavoro al settore politiche culturali, lavoravo, non so se lo posso ancora dire che lavoro, spero ecco di riniziare e vediamo quello che possiamo fare per quanto riguarda le politiche culturali. Già ci siamo sentiti questa mattina, abbiamo intenzione ecco di riaprire un ufficio, una specie di ufficio di relazioni per il pubblico. Ecco, avete sentito, tra tante incertezze, anche tanti dubbi dalle voci di assessori, dirigenti e dipendenti comunali. Ecco, l'altro tema della giornata è stata la visita del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Angelo Bagnasco. Ha cominciato visitando gli ospedali da campo allestiti nelle tendopoli, ha poi continuato con una visita nel campo della protezione civile, lì alla scuola istruttori della Guardia di Finanza Coppito, poi insieme ai Vigili del Fuoco, dentro una camionetta dei Vigili del Fuoco, ha fatto un giro per il centro storico ferito dell'Aquila, a cominciare da Piazza Duomo, poi anche alla Basilica di Colle Maggio, che è un po' il simbolo della Chiesa qui tra gli aquilani. E proprio lui, il Cardinale Bagnasco, ha annunciato che la Conferenza Episcopale Italiana fornirà nuovi aiuti sia economici ma anche non solo, anche in termini di volontariato, qui alle zone colpite dal sisma. Sentiamolo. La solidarietà dei Vescovi si è ulteriormente espressa, sia con quello che è già stato stanziato dei 3 milioni, sia aggiungiamo oggi, riusciamo ad aggiungere altri 2 milioni per alcune realizzazioni di tipo caritativo, come una casa di accoglienza, la sede nuova, una nuova sede per la Caritas, perché tutto è andato distrutto. E come è noto, la colletta nazionale in tutte le parrocchie d'Italia sarà fatta proprio domenica prossima, e questo sarà un ulteriore gesto concreto che andrà ad incentivare quello che è già stato stanziato per la ricostruzione e per gli interventi necessari. Ecco, se non avete altre domande da studio, dall'Aquila è tutto. No, grazie Daniele Morini anche per questa corrispondenza. Anna, parlavamo in apertura proprio con Daniele Morini della paura che è tornata. È tanta, anche perché ci sono ancora, ricordiamo, tante scosse anche la notte scorsa e anche questa mattina, non danno davvero tregua. E proprio nelle tendopoli uno dei problemi da fronteggiare dal punto di vista psicologico è quello della paura. Sentiamo. A Pizzoli, il comune aquilano in cui tutto sommato il bilancio del sisma non è stato troppo pesante, ora si deve fronteggiare soprattutto il panico. Perché adesso qual è il problema? Noi qui a Pizzoli non abbiamo subito molti danni, però in realtà c'è tanta paura, per cui le persone non vogliono rientrare a casa e quindi noi le dobbiamo assistere come se la casa non ce l'avessero più. E quanto ci confida il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, dalla tendopoli in cui abbiamo passato la notte, col termometro che segna 4 gradi, per tentare di capire di più un'esperienza che stanno vivendo decine di migliaia di terremotati in questo momento. Le persone non avevano capito all'inizio come funzionava, perché non abbiamo mai vissuto un'esperienza di questo tipo, per cui magari immaginavano che potevamo fornire a ognuno di essi una tenda che se la poteva mettere sotto il giardino di casa. Purtroppo non è così, o per fortuna. Perché dico per fortuna? Perché io sono convinto che stando tutti quanti insieme noi abbiamo la possibilità di garantirgli maggiori servizi e maggiore tranquillità. Daniela Binello, GR24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. C'è un altro fronte di cui molto vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, oltre a quello delle vittime, quello della ricostruzione degli edifici civili, quelle delle inchieste che ormai sono partite, e quello del ripristino dei beni artistici e culturali, dell'anima dell'Abruzzo. Anna Maria Reggiani, direttore regionale per i beni culturali dell'Abruzzo, l'ha intervistata per noi Andrea Viali. Che cosa dobbiamo fare subito? Togliere dagli edifici tutti i beni mobili che sono composti da suppellettile, da quadri, per esempio nelle parrocchie, nelle chiese, quadri, argenterie, preziosi, oltre quello, i piccoli musei e soprattutto il nostro Museo Nazionale d'Abruzzo. È in corso l'evacuazione dell'Episcopio, quindi con tutta la collezione di preziosi della Curia Vescovile dell'Aquila, che è molto consistente, sono veramente migliaia di pezzi, e questo materiale della Curia Vescovile sarà conservata a Roma nel caveau del Comando Carabinieri del Patrimonio. Avete già un'idea di quanti sono invece gli edifici di interesse artistico che sono stati danneggiati dal terremoto? Le stime le stiamo facendo. Laddove il sisma è stato attivo, diciamo che tutti, quasi tutti gli edifici sono stati colpiti, in modo più o meno grave. Quindi adesso questa è una cosa che noi dobbiamo fare. Comunque, per fortuna, oltre alle risorse regionali, il Ministero adesso ci manderà volontari da tutto il resto della regione che possono fare anche queste statistiche, quindi io spero di poterle esibire in breve tempo. E un'altra cosa secondo me che può essere utile è questa: da un'analisi superficiale si vede che il sisma non solo ha una periodicità, cioè è ciclico, colpisce sempre negli stessi punti. Allora, se si confronta il sisma del 1703 con l'attuale, si vede che già allora la facciata di San Bernardino si è salvata, e anche in questo caso. In quell'occasione cadde il soffitto della Basilica di Colle Maggio, che è stato poi rifatto, eccetera, eccetera, e nella nostra la parte absidale. Allora, che cosa dovremmo fare? Cioè, che io vorrei fare, oltre a tutto quello che ho detto prima, bisogna fare degli studi geologici, vedere bene la consistenza del terreno, perché evidentemente se le faglie sono quelle che sono state individuate, bisogna vedere anche come le vibrazioni arrivano a colpire i monumenti e fare questo tipo di analisi per rinforzare laddove c'è più bisogno. Perché qui il problema dell'Abruzzo è che è formato di rocce molto dure e molto frastagliate, e quindi questo lo rende fragile all'urto di queste onde sismiche. Quindi bisogna anche fare più studi geologici. Cosa ne pensa della proposta di far in qualche modo adottare i monumenti dell'Aquila da altre nazioni? Io sono favorevole a questo, perché anche i beni culturali sono un patrimonio dell'umanità. Sono le 13:44 minuti, c'è un'ultima ora appena battuta dalle agenzie, sono parole di Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana. Dice che ci sono alcuni timidi segnali che indicano un rallentamento della contrazione dell'economia statunitense, quindi massima cautela, ma forse quei semi di speranza dei quali aveva parlato nei giorni scorsi il presidente americano Barack Obama iniziano a vedersi. E allora, come promesso, apriamo però andando in Thailandia. Si stanno ritirando a Bangkok, ve l'abbiamo detto anche nei nostri titoli, manifestanti antigovernativi circondati fin da ieri sera dalle forze di sicurezza thailandesi vicino alla sede del governo. La polizia ha annunciato che i leader delle proteste però verranno perseguitati. Le manifestazioni, ricordiamo, erano state scatenate nei giorni scorsi dai sostenitori dell'ex primo ministro in esilio, Shinawatra. A Bangkok c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Luca Vinciguerra. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Luca, come hai trovato la città oggi? Ma io sono arrivato questa mattina e ho trovato la città in uno stato ormai di calma. Adesso mentre vi parlo sono le 7 di sera qui a Bangkok, la locale, e ho fatto un'ampia ricognizione un po' di tutta la città, facilitato anche dal fatto che oggi è festa e quindi non c'è il solito traffico che di solito c'è a Bangkok, come tutte le città del sud-est asiatico, e ho visto che praticamente tutti i posti, diciamo, i punti caldi che erano stati presidiati dalle camicie rosse nei giorni scorsi, in particolare ieri, sono stati liberati. Sono stato alla stazione di Pullman, in una delle più grosse stazioni di Pullman di Bangkok, quella nel nord, da cui sono partiti oggi circa un centinaio di pullman, di autobus diretti appunto nei villaggi, che hanno evacuato praticamente oltre 2000 magliette rosse. Insomma, ecco, le autorità insomma dicono che questi manifestanti ora saranno perseguiti e perseguiti duramente. Cosa c'è da aspettarsi? Cosa significa lì una cosa del genere? Beh, diciamo che più che i manifestanti verranno denunciati sicuramente i leader, insomma, diciamo che tutta la gran massa di persone che ha partecipato in questi giorni agli scontri se ne tornerà a casa, tornerà nell'anonimato in cui è sempre stata. Probabilmente l'azione legale del governo si appunterà su quella decina di leader del movimento antigovernativo, direttamente legati all'ex premier Shinawatra Thaksin, che poi alla fine è il finanziatore d'ultima istanza di questa rivolta. Questo sarà un banco di prova molto molto importante, perché è bene ricordarlo che 4 mesi fa, a fine novembre, l'altro movimento antigovernativo, cioè quello contro il governo delle magliette rosse, Fido Thaksin, aveva occupato i 2 aeroporti di Bangkok, creando non poco disagio al paese e soprattutto creando un danno economico rilevante, perché il turismo da quel momento in Thailandia è andato in crisi e non si è più veramente risollevato. Certo. Ecco, contro le magliette gialle non ci fu nessuna azione legale, adesso farla magari duramente contro le magliette rosse potrebbe rappresentare un qualche imbarazzo e ulteriori tensioni all'interno del governo. Certo, grazie dunque Luca Vinciguerra in diretta da Bangkok, torneremo a sentirti nel corso di queste giornate di tensione interna in Thailandia, tensione con l'estero per la Corea, e completiamo così il quadro della situazione in queste ore in Asia. Dopo la condanna dell'ONU, dunque, Pyongyang annuncia che riaprirà gli impianti nucleari. Non prenderemo mai più parte ai negoziati, non ci sentiamo vincolati a nessuna delle decisioni prese in questa sede. Adotteremo tutte le misure necessarie per ristabilire la nostra deterrenza nucleare. Ecco il contenuto di un comunicato diffuso quest'oggi dall'Agenzia di Stampa di Stato della Corea del Nord, in risposta alla dichiarazione presidenziale con la quale ieri il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva condannato il test missilistico effettuato da Pyongyang domenica 5 aprile. Minaccia concreta o colpo di teatro? Impossibile a dirsi con la Corea del Nord, ma di sicuro molti analisti concordano nel ritenere insolitamente duro il comunicato. Lo stato più isolato del pianeta continua a definire quello effettuato il 5 aprile scorso il lancio pacifico di un satellite per telecomunicazioni, mentre secondo la comunità internazionale si è trattato di un nuovo test missilistico a 3 anni da quello che, insieme a un test nucleare, valse alla Corea del Nord pesanti sanzioni da parte dell'ONU. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Ve l'abbiamo raccontato poco fa, alcuni timidi segnali che indicano un rallentamento della contrazione dell'economia statunitense. Un messaggio che arriva dal presidente della Federal Reserve Bernanke, anticipato oggi dal Wall Street Journal. Ma sui giornali americani c'è anche molto altro. Noi salutiamo Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, a cominciare da una cosa che peraltro ci riguarda e che riguarda Fiat. Articolo del Washington Post su Mark Yonne, la notizia è rimbalzata ieri da questo sito super informato che è Automotive News, e poi l'hanno riportata la maggior parte dei giornali. È un titolo di prima pagina del Washington Post, che è del giornale della capitale, quindi ovviamente quello più anche che segue più da vicino tutto quello che riguarda la Casa Bianca. Secondo il Washington Post è proprio Obama, del resto così c'è scritto anche su altri giornali, ad avere quest'idea di prendere Mark Yonne, di cui si fa un ritratto assolutamente lusinghiero, anche se lo si descrive come un manager che ha veramente ristrutturato la Fiat, facendo anche cose che nessuno dei suoi predecessori aveva avuto il coraggio di fare, cioè portare nuovi manager, rivoluzionare la catena della nascita delle nuove auto, quindi cancellare i progetti che non avevano un vero futuro, che non avevano incontrato il favore del pubblico e magari invece erano già in buono stato di progettazione. Secondo Obama e secondo il Washington Post è un po' l'unica speranza in questo momento per salvare la Chrysler, che se non avrà una svolta manageriale finirà con questa, quella che è stata definita questa bancarotta chirurgica pilotata, però pur sempre una bancarotta. Passiamo da un manager molto popolare come Sergio Marchionne, Giulia, manager in crisi di popolarità. Che cosa sta succedendo? Qui invece è la prima pagina di Financial Times, che appunto spiega che questi top bosses, questi top manager, preoccupati per questa cattiva stampa che stanno avendo, questa cattiva pubblicità, adesso si danno alla beneficenza, o magari in realtà, magari la facevano anche prima e la pubblicizzavano un po' meno. Il Financial Times infatti cita tra gli italiani Alessandro Profumo, sappiamo numero uno di Unicredit, che da sempre dice: io faccio beneficenza, non venitemi però a chiedere come, quando e perché è una cosa privata. C'è invece chi decide, appunto per rifarsi un po' l'immagine, di renderla molto pubblica. Tra questi c'è il numero uno di Porsche, che è questo Wendelin Wiedekind, che lo scorso anno ha guadagnato 80 milioni di euro. La Porsche è andata bene, per carità, non ha preso aiuti statali, però fanno effetto lo stesso queste cifre, e ha deciso di dar vita a 2 fondazioni alle quali dà indotto dote 5 milioni di euro l'una, e questo naturalmente con tanto di comunicato stampa e grande battage pubblicitario, però è vero, cioè questa cosa l'ha fatta realmente. Insomma, c'è davvero, stanno un po' cercando di ritirarsi su. Grazie Giulia, ci risentiamo domani. E intanto, un po' in attesa di A Tempo di Sport, prima di chiudere parliamo di calcio e di storia del calcio in qualche modo. Sì, parliamo di una finale di Coppa delle Coppe vinta dal Milan nel 73 sul Leeds, che ora gli inglesi rivolgono indietro per cattivo arbitraggio. Ma se per caso passasse questa revisione postuma di una partita, tutta la storia del calcio rischierebbe di essere riaperta, perché come nelle elezioni perse di misura, il partito perdente difficilmente accetta serenamente una sconfitta. Eh sì, se diventa una tendenza sono guai, soprattutto per gli impiegati della FIFA e dell'UEFA, che si troveranno sulla scrivania centinaia di reclami. Desta già stupore quello aperto con 10.000 firme da un europarlamentare inglese perché quella Coppa del 73 venga consegnata al Leeds per cancellare, sono parole sue, le scandalose decisioni di uno scadente arbitro greco. Il Milan vinse di misura con un gol di Chiarugi, ma l'unica cosa vera che si può dire è che quella partita fu di una noia straziante, che il Milan pagò a caro prezzo, 4 giorni dopo, facendosi travolgere dal fatal Verona e perdendo lo scudetto. Ma quella è un'altra storia di gufi e contrapassi che nessuno si sogna di cambiare, mentre da cambiare, se passa questo sciocco revisionismo calcistico, sono un sacco di partite scolpite nella storia proprio perché finite con un risultato ingiusto, come la finale di Wembley vinta dagli inglesi sui tedeschi con quel gol non gol dato ai padroni di casa nei tempi supplementari. E Mano de Dios, alias Maradona, che proprio con un gol di pugno permise agli argentini di battere gli inglesi ai mondiali dell'86? Questo è il calcio, bellezza inglesi, e nessuno può farci niente. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, ecco le notizie di oggi. Terremoto dopo la scossa della notte, torna la tensione nelle tendopoli e negli ospedali, inagibile una casa su due. Il fiume di soldi che arriverà per la ricostruzione è appetibile per gli interessi mafiosi, dice il procuratore dell'Aquila, ma il presidente della regione nega, non è una preoccupazione concreta. Ci sono timidi segnali di un rallentamento della recessione, lo dice il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Arresti domiciliari per Cinzia Banelli, la pentita delle nuove BR che partecipò all'omicidio di Massimo D'Antona. Ucciso per un commento di troppo su una ragazza, un 21enne, è stato accoltellato a Napoli durante una lite. Trattativa in corso per liberare gli italiani, ostaggio dei pirati, sequestrata al largo della Somalia, intanto un'imbarcazione greca. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Anna Migliorati. Coordinata da Daniele Biacchese con in regia Peter Bescapè. L'appuntamento, come sempre, per domani a partire dalle 13. Vi ricordo, anche oggi, speciale terremoto in Abruzzo alle 18. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.